18. Il Mirage IC. Davanti a lei si trova un Mirage IC, un aereo da caccia del costruttore Dassault, con il suo motore ATAR 09B esposto sotto di esso. I motori a reazione ATAR della Snecma hanno contribuito al successo di diverse generazioni di aerei da caccia e bombardieri francesi. In 50 anni sono stati prodotti oltre 5.300 motori ATAR, che hanno equipaggiato velivoli nelle forze aeree e navali di più di 20 paesi. L'esperienza così acquisita ha reso la Snecma un attore di primo piano nel settore dei motori militari e le ha aperto le porte dell'aviazione civile con la motorizzazione del Concorde. In questa galleria, il museo le presenta l'intera gamma dei motori ATAR. Dietro il motore del Mirage IC, osservi il sedile del pilota. Si tratta di un sedile eiettabile prodotto da Safran Martin Baker France, filiale detenuta al 50% da Safran e dalla società britannica Martin Baker Aircraft. Sotto il Mirage IC, può vedere anche tre motori a razzo a propellente liquido. Per saperne di più su questo argomento, si rechi alla sezione successiva.